I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Qualcosa inizia a muoversi nell'economia italiana e soprattutto nella voce che era risultata maggiormente assente in questi anni, i consumi interni. È noto infatti che negli ultimi 3 anni l'unica variabile ad andare bene a livello dell'economia italiana erano state infatti le esportazioni, che hanno confermato anche negli ultimi 3 mesi un andamento più che positivo rispetto a un anno prima. Ma a rendere più ottimista il Centro Studi Confindustria, che ieri ha segnalato un progresso superiore alle attese dell'andamento del PIL italiano, una volta tanto non è e non sono l'andamento delle esportazioni, ma l'andamento dei consumi interni. Certo, buoni segnali arrivano anche dai magazzini, le scorte si sono ridotte e questo significa che vi sarà un aumento degli ordinativi industriali per ripianare appunto la riduzione delle scorte. Ma essersi risvegliati sono i consumi interni anche in settori che prima ne risultavano esclusi. È sicuramente troppo presto per dire che i consumi sono orientati verso un recupero dei livelli persi in questi anni, però indubbiamente la svolta da questo punto di vista, per quanto modesta, c'è stata. Il segno più non lo vedevamo da anni e paradossalmente ci si attende che proprio dalla domanda interna, come viene chiamata, arrivi il contributo maggiore quest'anno a un PIL che potrebbe crescere più delle attese. Questo anche perché, come fa notare sempre il Centro Studi Confindustria, l'occupazione è ripartita, ma soprattutto si sta muovendo in presa diretta con i progressi della congiuntura economica e quindi del miglioramento del nostro PIL. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Più sentiamo parlare di riduzione delle tasse, più il tema di tagli e risparmi di spesa diventa lo spartiacque che darà la misura del successo o meno di questa promessa. In inglese si chiama spending review, revisione della spesa, e tanto per dare un'idea, l'anno prossimo dovrà garantire risparmi per 10 miliardi di euro che, se verranno a mancare, faranno scattare le clausole di salvaguardia, ovvero nuovi aumenti di tasse a partire dall'IVA. La notizia però è che qualcosa sembra muoversi. Ieri è stato avviato un nuovo sistema più efficiente per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. Un sistema che si basa sull'attivazione di 34 centrali di acquisto e che regolerà gli acquisti dei ministeri e anche quelli delle regioni, sanità compresa. In più il governo sta ragionando su come estendere questo meccanismo anche al mondo dei comuni. La cosa importante è che questi 34 centri di acquisto sostituiscono le altre 32.000 stazioni appaltanti che finora facevano appunto gli acquisti per conto delle pubbliche amministrazioni. Ci sono esempi che ricorrono quando si parla di sprechi. Le siringhe e le garze che acquistate in alcune regioni costano pochi centesimi e mentre in altre costano fino a 10 volte di più. Ecco, siamo solo agli inizi, quindi serve cautela. Ma il nuovo sistema delle 34 centrali di acquisto sembra davvero che dovrebbe aiutarci a eliminare gli sprechi partendo proprio dai risparmi sugli acquisti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.